dovevo andare a trovare proprio preciso qui dentro, fa un caldo bestia, si è anche spento il ventilatore. Io buono di Dio, ma un po' con tutto questo, ma anche te, ma guarda che devo venire a trovare la radio. Oh! Oh! Per Dio, molto bene. Anche quest'anno non mi hanno dato la vita. Anche quest'anno non mi hanno dato la vita. Anche quest'anno non mi hanno. Anche quest'anno non. Anche quest'anno. Anche quest'anno. Ho un nuovo imene. Sì, ho un nuovo imene. Mi sono resa nuovamente vergine. Ma non per me, eh. Per il mio ragazzo. Un piccolissimo pensierino per il suo compleanno. Purtroppo a volte lei dice quello che pensa. Ah, ma quindi lei è fascista? Un po' sì. Ma guarda come si vogliono bene, eh? Ma è una cosa impressionante, ma che bellezza, ma una voglia di tenerezza, una voglia di pianto, senti che tenerezza, senti, una voglia di gridare, ma che roba grande, senti, quando c'è la tenerezza del volersi bene, come voglio dire, essere felice, ecco, sì, direi così. Ascolta, se ci si mette a parlare di storie d'amore, mi sembra si scala un po' troppo in basso. Amore? Scusa, abbi pazienza, e che c'entra l'amore qui, guarda? Ma poi proprio io devo parlare d'amore? Io le donne le ho sempre pagate in vita mia. Comunque ormai con 50 euro si fa ogni cosa, eh? In appartamento, per Benino, con il letto addirittura, con la doccia. Se tu vuoi lo spumante, te lo porti da casa. Fatemi sciacquare la bocca, va? Con tutto il rispetto, Via, a proposito di rispetto, volevo dire... Allora ora ci provo io. Sta fermo. Lo vedi, guarda lui. E sta guardando me. Sì, guardo lui. Mi garba quello piccino, quello nel mezzo. Hai capito? Vai. Hai sentito? Hai visto? Non importa nemmeno se belli, eh. L'importante è se svegli, grille ciute e prepotenti. Vai. Sempre, dovunque... Vi dispiace se lo dico un po' declamando? Vai. Ci mancherebbe. Sempre dovunque nella vita, negli irti strati suoi più bassi, ruvidi di miseria e bruttati di muffa, interviene almeno una volta nel cammino di un uomo un sentimento dissimile da quelli che è destinato a provare nel corso della sua vita. Eh? Son gay. Accidenti. Ma guarda, non ti preoccupare, perché va benissimo lo stesso. Anzi, beato te, no, meglio così. Poi voglio dire, pensa che mio cugino è un nano. Non è che io volevo aprire una polemica su questa cosa, una discussione. Oh dai, che sarà? Tu sarai come il Papa, no? Anche il Papa è gay, eh. Come fai a essere gay? Scusa, è fascista. Per questo anche i gay sono fascisti. No, i gay sono tutti froci. Ma non sono i ballerini che sono tutti froci? Senti, ma mi levi questo dubbio. Il gay è un diversamente abile? No, il diversamente abile è quello che per dipingere usa il piede o la bocca. Sì, però anche i cinesi, se tu ci pensi, lavorano un poco piedi, eh. Ma c'è anche un cavallo che dipinge con la bocca, eh. Scusate, ma io ho da poco visto un ritratto fatto ad Andy Warhol, disegnato tutto interamente con il culo. Ah, ora sì, ecco, ora il discorso fila, sì. Sì, ma il filo del discorso? Il filo del discorso non si è detto ora. Si diceva ora. Sì, ti sei detto ora. Ti sei spiegato ora il filo del discorso. Il mio cugino è Andy Warhol. Sì. Papa è cinese. I cinesi sono tutti ballerini. Sì. I finocchi. Meglio fascista che fro. Sì. Il Papa dipinge col culo. No. Come no? Mi sembrava dipingesse col il mio cugino. Un cavallo. Sì. Andy Warhol. toccato il fondo. Gabbato lo santo. Fatta la legge. Gabbato lo santo. Passato lo sciopero. Gabbato lo santo. Badante rumena. Gabbato lo santo. Avuta la grazia. Gabbato lo santo. Rotte le acque. Gabbato lo santo. Poi il tempo è passato. Lo santo è gabbato. Voltata la giubba. Gabbato lo santo. Fatto il miracolo. Gabbato lo santo. State ascoltando. Gabbato lo santo. Su radio Onda Rossa. Gabbato lo santo. Tutto grida. Gabbato lo santo. Morte a Venezia. Gabbato lo santo. Milano da bere. Gabbato lo santo. Odore di Napoli. Gabbato lo santo. Roma capoccia. Dermon non fame. Passato lo mare. Gabbato lo santo. Gabbato lo santo. Salato il prosciutto. Gabbato lo santo. Bruciato l'incenso. Gabbato lo santo. Passato il lutto. Gabbato il morto. Finiti i fuochi. Gabbato lo santo. Scavata la fossa. Gabbato lo santo. Giovanni rotondo. Gabbati dal santo. Pagata la rata. Gabbato lo santo. Fatto il contratto. Gabbato lo santo. Don Budget Bozzo. Facciamolo santo. Per la par condicio. Hip hip urrà. Gabbato lo santo. Gabbato lo santo. Ancora una volta. Gabbato lo santo. Per l'ultima volta. Gabbato lo santo. Passata la tortora. Gabbiano lo santo. Cavallo goloso. Delfino curioso. Vietato fumare. Gabbato lo santo. Musica lounge. Gabbato lo santo. Luci soffuse. Gabbato lo santo. Passata la moda. Gabbana lo santo. Dirige l'orchestra. Abbado lo santo. Cantata la messa. Gabbato lo santo. Finita la cena. Cantucci e Vinsanto. Pieghiamo. Mi scusi se mi permetto, signorina, però ecco, mi sembrava che lei non stava ascoltando. Gabbato lo santo. Mi scusi. Prego. Ah, mi scusi. Mi posso alzare? No, no. Fermo. Un po' di sofferenza ti può alleggerire dai peccati. Ti purifica. Sì, soltanto che io, ecco, mi volevo alzare per sgranchirmi le gambe, ecco, camminare. Cammina con Dio. Sì. È molto divertente Dio, sai. Dio è una persona umorista. Gli piace scherzare. A me a volte mi viene da ridere, ma dico, guarda Dio, oggi proprio a me va... Posso fare qualcosa per lei, signorina? Sì, sì. Prego. Lei è molto bella. E così piena di grazia. E benedetto è il frutto del seno suo. Sì, lo voglio. Ecco, ora mi posso alzare. No, no, no. Ora aspettiamo la notte. La veglia finirà alle 5:30 del mattino. Poi c'è tutta una celebrazione liturgica arricchita da battesimi. Oh, battesimi con tutto, C'è un grande spazio in questa veglia. Grande libertà di esprimersi in coro. Anche i bambini hanno il loro spazio. Lì cantano, fanno le domande ai loro genitori. E che domande fanno? Ah, per esempio... Babbo, come mai siamo ancora svegli a quest'ora della notte? E poi si va tutti insieme a mangiare. Ah, c'è da mangiare, ah, ho capito. Oh, ecco, guarda, bisogna che vada a casa perché ho lasciato dei fagioli a rinvenire nell'acqua. Bisogna che vada a casa e li metta nella pomarola, che almeno in modo e maniera che domani, ecco, io li possa mangiare all'uccelletto con una salsiccina, due fegatini. Via, vado, via. Gentili ascoltatori, qui non conta quello che si può proporre alla gente, ma quello che la gente vuole, e la gente vuole il Montenegro. Signorina, signorina, mi scusi, posso darle del tu? Sì, lo voglio. Allora, un tirino di coca te lo fai? No, stamani no, Come no? T'ho a dare un pasticchino. Ecco, sì. Com'è Massa così seria però? Ascolta, te tu lo sai perché sono seria, Apposta, ma almeno ti tiri un pochino su con la pasticchina, no? Sì. Sì, sì. Però ora vo via. Arrivederci. E dove tu vai? A fammi sopraccigli! Ma dall'estetista? Dall'estetista, sì! Ma quanto tu spendi? 3! Ma te li pela a mano o con la ceretta? A mano, a mano! Ma tu torni! Diammine! Oh, vedi bene, la vedi lei? Lei la viene dall'est, l'est straniera, no? Praticamente. Ma la sei amalgamata subito, è integrata, come si dice, insomma, inserita, regolare. Sa da dove la viene? La viene da Buda! Stranieri, Questi stranieri. Il troppo di troppo stroppia. Questi ti portano via ogni cosa, ti portano via. Lo sai che va fatto? Va fatto come nella caccia. Si controlla il territorio e si guarda quanti ce n'è da ammazzare. Quanti ce n'è da ammazzare, 100, 200, 300? E si ammazzano, questi stranieri. Perché gli italiani, tu li paghi, se tu li paghi, li fanno i lavori che fanno questi imbecilli, questi extracomunitari, sai? Li fanno anche gli italiani se tu li paghi, sai? E non è che io sono razzista, E che cazzo? Cioè, un po' sono razzista. Sarebbe meglio che ognuno rimanesse a casa sua, ecco. Sì, ma o te o tu sei andato a lavorare in Svizzera? Apposta. Ah. Lo sai che facevano gli svizzeri? Mi facevano pagare anche l'acqua che respiravo. Mi sono entrati i rumeni in casa. Sono veramente, veramente, veramente col dente avvelenato. Sono passati da un buchino così. Con una penna hanno agganciato una finestra, come hanno detto i carabinieri, hanno tirato dentro un uovo che addormenta. Ma per dormire si è dormito benissimo, ma come si fa ora a avere il dente buono? A me, lasciatemelo dire, io so contro anche ai cinghiali. Perché se c'è una cosa che fa danno qui, so cinghiali. Il cinghiale appena scappa una piantina così, pide e se la mangia. Appena spunta un faggettino, se lo mangia. Esce una cimetta, tra, pide e se la mangia. Perché io ve lo dico, E poi non dite che non ve l'ho detto. Un cinghiale è 3 capre. Questo è strano da spiegare, ecco. Cioè, io fo proprio fatica a spiegarlo. Non lo so, forse è perché non mi riesce a parlare un granché bene. D'una cosa sono convinto, e la base è comune. Via. Non so se dire una cosa grossa. Non lo so se dirla, ragazzi, c'è poco da fare. È difficile, è proprio molto difficile, ma proprio davvero proprio impegnativo. Non lo so, poi è difficile anche da spiegarsi così a freddo, hai visto? Nel senso... Se non troppo facile. È come dire... ora non ho parole. Come dire... L'ho sempre detto e ora non mi viene. Come dire... riguarda Ma lo sa lei che sta ascoltando questa radio? Lei, caro ascoltatore, lei lo sa come si fa a trasportare un camion di maiali? Se l'è mai chiesto lei, caro ascoltatore, come si fa a trasportare un camion di maiali? Se lei carica un camion di turisti, li porta di qui a Copenaghen, poi fanno il giro di Capo Nord e viene giù dalla Svezia, fa tutti i fiordi norvegesi, si cambia gli autisti e il turista può rimanere dentro il pullman 4 giorni in fila. Invece, se lei carica un camion di maiali, si fa 6 ore di strada. Poi, dopo 6 ore, i maiali scendono, giocano un po' a maraffone, vanno in piscina, vanno in albergo, si distraggono un po'. Si ricaricano dopo un giorno e si fanno altre 6 ore. in modo che un camion di maiali che parte da Rotterdam in Olanda per arrivare a Bari ci mette 8 giorni. E i maiali dopo 8 giorni sono già morti, naturalmente. Tutto questo, è perché i verdi dicono che i maiali durante il viaggio si stressano. Ma è una cosa vergognosa, una cosa vergognosa. Che vergogna, tutto di plastica, tutto unto, tutto quell'unto. Poi, mamma mia, ma come si fa, E sì che le cozze vanno sgusciate. Sì, abbiate pazienza, ma il problema non era né l'unto né le cozze. Il problema vero era la gente. Rastoni, panchettoni, laureati briachi, pancabestia cocani, gente del sud nostro. Drogati. Eh? Drogati. Davvero. Mi dispiace dirvelo, ma c'era anche drogati, sì. Ora, magari voi non ve l'avete riconosciuti perché il drogato di oggi pare quasi una persona normale, capito? Tu lo vedi, tutto vestito per bene. Almeno il drogato una volta aveva la decenza di apparire come drogato, tutto sudicio. Oggi pare anormale. Se hai avuto sfortuna, cioè se hai avuto veramente sfortuna. Siamo capitati in una tavolata. Vabbè, ma non è che quelli non debbano mangiare, eh. Però se uno non ce la fa a portarsi la forchetta alla bocca. Ma poi tutti sbrodolati di sugo. Sugo? Quello accanto a me ha cacato. Cacato? Cacato. Cacato! Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Woman, no cry. No, woman, no cry. No, quella è gente che andrebbe chiusa in casa. Però quella più giovane, la spastica, quella era anche discreta. Discreta? Era spastica. Faceva schifo. Cioè, faceva schifo lei... Tu facevi schifo te, ecco. Faceva schifo la salsiccia, la rosticciana, ma in particolare lo vuoi sapere che è che faceva schifo? La bistecchina faceva schifo. Ma lo sapete voi come si fa a trasportare un camion di maiali? Sì, se lei carica un camion di turisti, li porta di qui a Copenaghen, poi fanno il giro di Capo Nord e viene giù dalla Svezia, fa tutti i fiordi norvegesi, si cambia gli autisti e il turista può rimanere dentro il pullman 4 giorni in fila. Invece, se lei carica un camion di maiali, si fa 6 ore di strada, poi dopo 6 ore i maiali scendono, giocano un po' a maraffone, vanno in piscina, vanno in albergo, si distraggono un po', si ricaricano dopo un giorno e si fanno altre 6 ore, in modo che un camion di maiali che parte da Rotterdam in Olanda per arrivare a Bari ci mette 8 giorni e i maiali dopo 8 giorni sono già morti, naturalmente. Tutto questo... Perché i verdi dicono che i maiali durante il viaggio si stressano. Sì. E purtroppo, è vero Bellino? Che? Purtroppo al mondo ci sono i furbi, E ci sono i coglioni. Madonna, è maglia grossa tu hai. Eh? Oh, questa è grossa, eh. E che ha fatto? Ti sei pisciato nelle scarpe? Ma che mi ha fatto questa imbecille? Mi ha sputato davvero, ma... Mi ha sputato davvero questa schifosa! Oh, che si sputa? Davvero si sputa, per Dio! Non si sputa! Sì, ma senza... Ma senza cosa? Ma ha sputato davvero quella lì! Non va sputato, non bisogna sputare così! Non si può sputare in questo modo davvero! Non bisogna sputare, non bisogna, per... No... Vieni qua se tu hai coraggio, vieni qua se tu hai coraggio! Ti ho detto vieni qua! Schifosa bastarda beduina, vieni qua se tu hai coraggio! Vieni qua! Vieni qua, Giuseppina, che cosa ne traficatici, via! Giuseppina, che conosco, non hai condotto, sai! Schifosa bastarda, vieni qua! Che ti metta pecora, cagna! Ti metta cagna! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Pecora! Ready? Set! Go! Il paese che possiede al mondo la quota percentuale più alta di bellezze artistiche e paesaggistiche. Il paese in cui La nostra poesia fa vibrare i cuori di papi e re. Siamo l'unico paese col papa, l'unico paese dove è possibile dire made in Italy. Primo al mondo per produzione di prodotti di lusso, primo al mondo per produzione di pasta, primo al mondo per gli studi sismici, al primo posto mondiale per turismo sessuale. 4 volte campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Il paese con più auto blu del mondo. Primo in Europa per numero di stufe a pellets installate. Stufe a pellets, stufe a pellets, stufe a pellets. Primo in Europa per telefonini pro capite. Primo in Europa per obesità infantile. Prima in Europa per le rapine agli sportelli, prima in Europa per crimini violenti, prima in Europa per evasione fiscale e morti sul lavoro. Che lo facessero sapere al mondo! Che sono i migliori! Noi! Che sono i migliori! Noi! Che sono i migliori! Noi! Noi! Noi! I migliori siamo noi! Commento intatto, lunghe e perfette, are! Amen. Purtroppo ragazzi, c'ho da fare. Mi è morto un parente, vedi? Me l'ha preso il Padre Eterno. Si vede gli faceva comodo. Si vede gli faceva comodo anche la mia moglie. Mi ricordo quando morì, mi passò come una sfera davanti agli occhi e lì dissi purtroppo. Eh sì, e che vuoi dire? Io dissi purtroppo. Purtroppo sì. Parino, mi diceva sempre, io quando sarà il mio momento voglio andare in terra, voglio andare in terra, c'è andato in terra, vai. Ma non era meglio bruciarlo? No! Bruciarlo? Bruciarlo no. Poi ci mischiano, ci danno da mangiare a maiali, si è sentito troppe storie, via. Tanto si va sempre a finire laggiù, a far compagnia ai genitori. Laggiù? Lassù? Se lui è in paradiso, vedi, non ci voglio andare. Voglio andare nel profondo dell'inferno per non sentirlo più. Inferno, girone, profondo. Non voglio incontrare più nessuno, guarda. Parino. Pensare era tanto buono. Poi, non so se tu ti ricordi, ma... già una volta la sua macchina lo mise sotto. Oh, come? Sai, io non m'ha capito io come... Bisogna tutti immagini questa macchina, quest'uomo dietro, appoggiato, e questa macchina all'improvviso lo sottò. Ecco, io meglio di così non te lo so spiegare. Ma, guarda, io non vorrei neanche cambiare argomento, ma... Lo sapete, sono stato a Firenze? Sono stato a Firenze a vedere le nuove cappelle... Come si chiamano le nuove cappelle? Nuove cappelle? Medice. No, non medice. Cioè, saranno anche medice, ma c'è proprio un nome specifico che ora non mi viene. Nuove cappelle a Firenze, dai, nuove cappelle... Ma all'obitore? No! Allora? Sembrava di essere al supermercato. Casse aperte, casse chiuse, gente che rideva. Ma a proposito di gente che rideva... Lui la foto ce l'ha? No, oh, ce l'ha, sì. Ce n'è una bella, ma che dove era proprio venuto bene, tutto sorridente, hai visto, tutto contento. Bene, bene. E che poi se l'era fatta al mare. Meglio, figurati, il mare. Però, ecco, sott'acqua. Ah, sott'acqua. Non so, è un problema. Sento un po', ma la sua mamma lo sa. No, perché sennò voglio avvertirla, ci va volentieri, sai. E che gli dici? Gli dico, senta signora, c'è una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che su tuo figliolo è vivo. E quella cattiva è che non è vero nulla. Tu sei tanto imbecille, parina. Siccome tu sei furbo te, no? Sei furbo te, no? Mica tu glielo puoi dire così, ma eh! Ma sentiamo, sentiamo, e che gli dici? Ma che gli dico? Gli dirò, guarda Mara, stavolta tuo figliolo sta male. Sta male, male, male, male davvero, Mara. Può darsi anche sia morto. Oh, via, su. Ora praticamente ci manca soltanto un cofano. Praticamente tutto quello che ci manca per quanto riguarda il cofano? Cofano? Sì, sì. Ah. Inteso come valvole, zinchi, imbottitura, materassino. Beh, come è logico che sia, prendo tutta roba della migliore qualità, no? In queste occasioni non si bada certo a spese, no? Beh, guarda, io credo che ti verrà sui 2,5 l'oculo, 2,833 il cofano, corone, fiori, un cazzo e un altro, bah, 8.000 euro conto pari, vai. Quanto? 8.000 euro. Ma non c'è verso spendere un pochino meno, perché... Ma, boh, si può vedere di trovare qualcosa d'usato, ma... 8.000 euro per quel cretino? Eh? Ma mettilo in un sacchetto, vai, in una bella scatola di cartone, che tanto è un imbecille. Un cretino, vedi? Era un amico di famiglia. Dopo una settimana che era morto mio marito, non venne a darmi noia. Quanto rimase offesa, umiliata, eh? Questo deficiente, questo cretino. Sono 16 anni che cerca di riavvicinarsi. Passa un anno, passano due, ma mica dopo una settimana sa venirmi intorno. Cretino. Ma poi comincia anche io a dargli noia, sai. Gli telefonavo tutti i giorni. Che fai? Eh? Dai, ancora, toccati, toccati di qui, toccati là, ti stai toccando. Che fai? Dalle seghe l'ho fatto finì! Ma quello stupido schifoso ci provava gusto. Perché lui non capisce niente, quel mascalzone, guarda, non lo posso vedere, non lo posso vedere! Via, senti, abbi pazienza, anche lo so che tu sei anche morto, fra l'altro, ma ora che siamo rimasti da soli bisogna che te lo dica. E c'ha ragione lei, c'ha ragione lei, dopo una settimana non si fa, non si fa, un minimo di rispetto per morti ci vuole, ora te lo dovresti sapere anche. Ma poi con la moglie del tuo amico, ma dai. È che era una bella nana. E poi... E mi guardava. E mi guardava. E mi guardava come mi guardava la tua moglie. Come? Come? Come la mia moglie... La tua moglie. Ma la mia moglie... Ma magari, ecco, ti sembrava? No. Ah. Senti, c'hai almeno una sigaretta? Ho smesso. E... Di già una volta ero bello e morto, eh. Ero bello e morto, sì, poi ripresi, ero bello e partito, via. Ero bello e morto. Mi sarà fermato il cuore e ripartì. Ma alzai alle 5 per fare un po' d'acqua. Tornan qua. C'avevo la televisione accesa e cominciai a far così con la mano e cominciò a girarmi la testa e dissi: sarà meglio muoversi e andare via. E invece... E feci in tempo a girarmi a scandietro e battei il capo in un radiatore di ghisa come quelli che c'erano là, sai? E me lo spacca tutto il capo. Son cascato e mi sono rotto dentro, sì. La ghiribizza, il cervello. E volete sapere come ho fatto a accorgermi del fatto che ero a scato in terra? Dai contatto con le mattonelle. E insomma, viensano... Mi presano e mi portonno. È stato un attimo. mi sono ancora annoiato. Giro avanti e indietro. Vado lì, poi vado in casa. Poi sto fuori, poi vado lì. Dico son lì, e invece son lì. Ho perso anche quello che non credevo mai. Ora è solo un ricordo dei ricordi, tra i tanti ricordi, le solite cose a lei. Non mi sono ancora annoiato, giro avanti e indietro, vado lì, poi vado in casa, poi sto fuori, poi vado lì. Dico son lì, e invece son lì. Ho perso anche quello che non credevo mai. Ora è solo un ricordo dei ricordi, tra i tanti ricordi, le solite cose a lei. Ecco qui, amici radioascoltatori. Ora, se tutto è andato come doveva andare, dovreste vedere in alto a destra davanti a voi una scritta molto lunga, forse un po' annerita dal tempo, ma ancora perfettamente leggibile. Ecco, come vedete, le iniziali del gentiluomo: F O D G R S G E T N U V O L A. Nuvola. Non ricevo. Riprova e controlla. Nuvola. Non ho ricevuto. Le lettere che si sviluppano su colonne tortili, molto tortili, davvero, davvero, molto tortili, scolpite nella muffa dei secoli, nei secoli. Amen. Alla vostra sinistra, invece, dovreste vedere un bellissimo esempio di busto acefalo, senza testa, diciamo, senza capelli, senza niente dal collo in su, tutto muscoli e niente cervello, scolpito con ferma mano nella plastica e oro da quel gran pitto scultore che fu Immi Babbo, eh? È vero? Voi tutti, radioascoltatori, vi ricorderete de Immi Babbo. Alla vostra destra, invece, come è chiaro che sia, un bellissimo complesso scultoreo raffigurante un amplesso, è vero? Un bel amplesso. Corpi bianchi, corpi celesti, corpi di acci marmati, e i più attenti tra voi si saranno accorti che tra le gambe delle ninfe si schiudono vogliose le vagine delle ninfe, eh? È vero? Contrapposte a questa schiera di grandi falli bianchi eretti, falli di fauni in marmo bianco, ornati da contrafforti di grossi coglioni. Ora, voi non ci crederete, ma i coglioni del secondo fauno da destra, oh, sono uguali identici a quelli dei Immi Babbo. O tosco che per la città del fuoco, vivo ten vai così parlando loco, così parlando, piacciati restare in questo loco. La tua loquella ti fa manifesto di quella nobil patria natia alla qual forzio fui troppo molesta. Ave Maria. Fanno cenoni, basta pagare. Allora posso venire anch'io? Certo, può venire lui, può venire quell'altro. Tradizionale, tradizionale, bambini che si alzano, la mia mamma, tutti parenti. Oh, ma quanti parenti, eh? E questa mangiata tremenda è tradizionale. È davvero, davvero straordinario questo panettone. Guarda che non è panettone questo qui, sciabordito. Lo sai questo che è? È Pandoro. Pandoro? E che... Pandoro? Pandoro? Pandoro no! Oh! banditi! Ci volevo! Ecco. Ora tu me l'ha fatta anche piangere. Sai con questi che, Pandoro? Tu sei contento ora? Non ci penso. Ero in balia di chissà che cosa. Ah, e poi a volte ci sono delle manifestazioni della persona che mettono in parapiglia ogni ben di Dio. Ah, io può darsi forse... Io credo che sì, credo che sia colpa della coercizione indotta. La? Coercizione indotta. Certo. Bellina questa. Dove te l'hai sentita? A Pescara. Erano giorni felici quelli. Ci si ritrovava tutti i parenti, tutti felici intorno a questa enorme tavolata con i bambini che correvano, le zie, le nonne, tutti. E poi ci siamo sempre andati più impoverendo tra le zie che si separano e le nonne che muoiono. A me invece mi è rimasto sei galline sole. Le tengo lì per divertirmi un po', un po' bene? È un po' bene a tenerle? Certo. Ah, ecco. Proprio l'orto, mi balocco, spazzo la casa, canto, fischio, fo le paste asciutte, le scolo, mangio le mele. E poi arriva il venerdì e il venerdì si va tutti a ballare. Sì! Sensual, un movimento sensuale, sensual, un movimento sexy, movimento sexy. Bene, bene, bene, via, vado a casa anch'io. Vado a letto direttamente. Non mi lavo nemmeno i denti. Magari alle 5 mi sveglierà il rimorso, ma... Mi metto lì, prendo un pane, me lo mangio con l'olio. Mi prendo un gatto, me l'appoggio qui, sulla pancia. E strapasso la televisione. Si sta bene a casa, con questo gatto qui, dove dico io. Per non sentire freddo. Ecco, a me mi è rimasta da dirvi una cosa sola. Voi lo sapete, no? Che io ho sposato qua giù una moglie, no? Che erano due sorelle. Ora, finché è campata la sorella, era tutta una famiglia, visto, uno un po' in qualche maniera se la cava, un colpo ai cerchi, uno alla botte, ma oggi ormai non si può cavare più nulla, perché se io litigo con la mia moglie, no, perché a me mi piace di stare gran parte del mio tempo nel garage, e lei mi fa, ma tu vai sempre nel garage, tu vai sempre nel garage, sta con me un po' in cucina, no, dico, ma cosa ci fo io con te, 60 anni si sta insieme, se discute ora, perché uno lo sa, ma alle volte... Dopo 60 anni di matrimonio ti sembra andare a letto con la tua nonna, Ma poi non c'è più nemmeno, capito, nemmeno la discussione, capito? Cioè, al massimo, alle brutte, lei mi fa, guarda, è finito l'olio. E io dico, guarda, boh, a pigliartelo io e approfitto perché so che l'olio è nel garage, almeno posso stare un po'. Questi sono i discorsi nostri. Oppure mi fa, guarda, stasera è proprio freddo, dico, sarebbe da accendere il camino, almeno può pigliare la legna, che nel garage anche quella, ci posso stare anche una mezz'oretta, 40 minuti. Ecco, questi sono i discorsi, ma poi altre cose, niente. Altre cose, è proprio finita. Ascolta, e ti sento così triste, ti fa un caffè? Non mi va un caffè, ora abbi pazienza. Ascolta, ti sento davvero così triste, ti fa un caffè? Sì, ti ho detto che non mi va il caffè davvero. Oh, via, un caffeino. Sì, ti ringrazio. Oh, pigliare un caffeino, via. Non mi... Che ti farà un caffeino? Ti no, fa non bene, mi, no? Non mi fa bene, sì, mi fa bene sicuro, ma non mi va, però. Oh, va, un caffè. Oh, via. Ti ho detto di no. Allora ti fa un porro. Un? Porro. Ma è un semplice ortaggio, povero. Di cui però si riescono a fare dei piatti elaboratissimi, come fondi di cottura, creme, risotti... Un porro. Ho capito, ma un porro così da solo. Tu lo inzuppi nel caffè? No, ascolta, facciamo una cosa, non mi va nulla. Guarda, grazie. Ho capito, ci penso io. Ecco. Scusami, e mi è venuto in mente ora, guardandoti così, vis-à-vis, vicini così, non ci si era mai visti, no? Le patatone ti fo. Sono semplici anche quelle. Le piglio, le taglio rondelle, le metto sulla griglia e ve le fatto. Un po' di prezzemolo, un po' tagli e via. Più semplici sono, più buone vengano. Ho sognato che ero come una donna. Arrivavo al dunque e ho trovato chiuso. Ma fortunatamente lì vicino a noi c'erano anche delle costruzioni, di quelle gialle, rosse e verdi, sulle quali ho potuto ripiegare. Te le ricordi le costruzioni, quelle gialle, rosse e verdi? Quelle come andavano negli anni 60. Ah, gli anni 60. Lo stesso periodo in cui ho conosciuto altre realtà tramite sostanze. Era lì che mi intenerivo per delle cose assai semplici. Un foglio di carta. Ah, se avessi avuto un microfonino come questo, sì. E poi vedevo le macchine che si allungavano, e le pareti che via, vado a casa davvero, si è fatto tremendamente tardi. Là c'è mia moglie a casa, ci si mette sul divano e aspettiamo il 2012, quando arrivano i dischi volanti. Via, vabbè. Lo so che sono stati davvero pochi gli spazi di tranquillità oggi, però ora ormai che ci siamo vorrei fare un'ultima cosa, poi via ci si saluta. Vorrei dimagrire un pochino, se non vi dispiace, mi metto qui. Tanto hanno detto che ci vuole tanto poco a dimagrire. Mi metto qui, guarda Marino, sono anche già a sedere, figurati, proprio così. Mi metto qui immobilissimo e dimagrisco un po', eh. O vai, fammi dimagrire. Ascolta, e ci penso io a farti dimagrire un pochino, vai ora. Ci penso io per te, ci penso io. Vo di là e ti fo il pesce spada. Guarda che non è pesce spada codesto, sciabordito. Lo sai codeste che sono? Codeste son verduzze. Pensano di pigliare il pesce spada. Il pesce spada non esiste. Come non esiste il pesce spada? Che ragionamento sarebbe questo? No, il pesce spada esiste. Esiste il pesce spada, io l'ho visto. Esiste, a me mi garba il pesce spada. Io gli do importanza al pesce spada, guarda un po'. E c'è da dargli importanza al pesce spada, capito perché? Perché il pesce spada c'ha delle cose, il pesce spada c'ha delle cose impossibili e meravigliose. E scusateci per la semplicità.